Voci è un progetto che ha preso il nome dalla pluralità delle voci di un fatto storico e la pluralità delle voci che oggi leggono quel fatto storico, studenti, anziani, persone di generazioni e di estrazione sociale e di cultura diversa che leggono in modo corale le diverse voci coeve e successive di un fatto storico. Abbiamo lavorato 10 anni in questo modo, l'anno scorso abbiamo fatto una sorta di sintesi di questi lavori di 10 anni attorno al tema della guerra, era appena scoppiata la guerra in Ucraina, quest'anno abbiamo deciso di abbandonare il passato in senso stretto e di concentrarci sul presente, naturalmente vedendo lo spessore diacronico del presente, cioè la quantità di passato che è incastonata nel presente e che ci può aiutare a capirlo e a spiegarne le ragioni. Quest'anno ci dedichiamo alle migrazioni perché tutto in noi si ribella di fronte a questa strage e di fronte a questa enorme ingiustizia. Spostarsi è un diritto elementare di qualunque essere umano. Noi partiamo dalla idea che la legge contro l'immigrazione clandestina sia la più incostituzionale delle leggi italiane, perché spostarsi è un diritto. Dopodiché l'organizzazione è un altro problema. L'umanità si è sempre spostata, si è sempre integrata, si è sempre mescolata e oggi chiudere le società europee e in particolare chiudere la società italiana attorno all'idea che ci sia una sorta di stirpe da tutelare e da proteggere, rimanda alle lugubri idee del nesso terra e sangue che nel Novecento hanno un nome, fascismo e nazismo. I laboratori verranno suddivisi in realtà in 2 anni, il progetto Migrazioni dura 2 anni e questo primo anno i laboratori dei diversi gruppi di studenti, di adulti, di anziani, di studenti e di giovani di condizioni e situazioni diverse hanno dei punti di sintesi attorno ad alcune conversazioni nelle quali alcuni esperti riferiranno su alcuni temi ma soprattutto discuteranno con i partecipanti ai laboratori di questi temi che servono per avvicinarci al grande tema delle migrazioni, avvicinarci con calma, avvicinarci con ponderazione, avvicinarci con cognizione di causa dei fatti storici e non solo storici che stanno attorno a questa vicenda. Sono 6 le conversazioni previste, quindi diciamo che il tema delle migrazioni viene approcciato da 6 prospettive diverse. Possiamo fare qualche esempio? Innanzitutto alcuni temi presenti, la Chiesa Cattolica, i diversi mondi che afferiscono alla Chiesa Cattolica, come valutano e come affrontano questa vicenda, sia la struttura ecclesiale, sia le strutture che sono preposte all'assistenza, all'intervento, sia la sensibilità del mondo cattolico. Per esempio vediamo oggi che l'Avvenire, il giornale cattolico per eccellenza italiano, dimostra una sensibilità particolare per il tema. A cosa corrisponde questo nel mondo della Chiesa e nel mondo dei credenti italiani? E su questo discuteremo con Massimo Ruggiano, che è il vicario episcopale della Carità della diocesi di Bologna. Oppure cosa pensano i musulmani italiani, sia quelli che hanno la cittadinanza e che sono in Italia da tanto tempo, sia quelli che sono arrivati da poco e sono ancora in attesa di una definizione giuridica della loro presenza. E di questo discuteremo con Yassin Lafram, che è il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. Come affrontano i musulmani italiani questo tema enorme delle migrazioni che riguardano in gran parte musulmani? Questo per quel che riguarda il presente, unitamente a un altro tema che riguarda il presente, le questioni giuridiche. Se ne parla tanto, ma in modo sempre superficiale o soltanto per accenni. E qui discuteremo con Alessandro Gamberini, che è un stato docente di diritto penale, che è un avvocato molto noto, tra l'altro è stato l'avvocato che ha difeso Carola Rackete e l'ha fatta assolvere. Le questioni giuridiche, cosa dice la legge italiana? Cosa dice la legge europea? Cosa dice il diritto costituzionale? Insomma, in quale cornice giuridica italiana ed europea si colloca questo fenomeno? E poi abbiamo 2 conversazioni invece a carattere storico, una con Gianluca Gabrielli, che è uno studioso del razzismo coloniale italiano. I nostri pregiudizi verso queste persone vengono anche da una straordinaria educazione al razzismo che l'Italia coloniale fascista ha condotto negli anni 30 in modo sistematico e che poi non è stata decostruita e che forse rimane. Tra l'altro tra i migranti ci sono moltissimi etiopi e l'Etiopia è stata colonia italiana. Il luogo nel quale si imbarcano e nel quale vengono trattenuti, incarcerati, violati i corpi di queste persone è la Libia, altra colonia italiana nella quale l'Italia ha fatto cose terribili. E Gianluca Grilli ci riporterà queste riflessioni. E poi un altro pezzetto di passato che non è insignificante, cioè quando gli emigranti eravamo noi. L'Italia ha avuto un fenomeno migratorio enorme fino al boom economico, fino agli anni 60, che ha ripreso adesso, ma naturalmente con numeri diversi da allora. Noi italiani siamo stati accusati nel passato, come oggi accusiamo i migranti, di finire nella delinquenza, di finire nella indefinitezza sociale, di finire di operare come terroristi, eccetera. Allora guardiamo a questo passato che forse ci aiuta a relativizzare un po' le nostre diffidenze. Tutto questo attorno a un asse portante, letterario, e cioè ci saranno dei gruppi di lettura e delle letture relative a Furore di Steinbeck. Non c'entra niente Furore di Steinbeck con le migrazioni attuali, però negli anni 30, negli Stati Uniti della Grande Depressione, ci sono questi spostamenti di popolazioni interne che hanno qualcosa però in comune su cui riflettere: lo sradicamento, la disperazione, la precarietà, la estrema difficoltà di questi spostamenti, la ferocia della diffidenza che si incontrava nel proprio percorso. E quindi diciamo c'è una dimensione tutta letteraria che sarà discussa con degli americanisti, e il libro sarà letto da gruppi di lettura e discusso.